Leone sul binario 10, cambio. C'è qualcuno? Hola, canale 10, cambio. Chi è? Buonasera. Ma se la voce deve mancare. Miau! E chi è? Il gatto siamese. Gatta fora. Fatto uno spostamento qua, sotto PMR, perché con la radio non ci sta. Non ci sta, devo trovare un'altra soluzione, domani vediamo, ma non agi più ganami. Ehi, la togge sta. Ce n'è posto per mettersi gli apparecchi più, che se c'hai 40 metri quadri, c'è un bel po' di posto in quella camera, è abbastanza larga. Ma ho cambiato tutto, le basi non ci sono più, le radio sono dove c'era prima il computer, non ci sono più le basi, e lì ci va il divano, il divanetto, per guardarmi la TV. Antonello, non è più nessuno. Io non devo stare a perdere tempo con la gente a investire quattrini, capito? Mi ha tolto tutto e le radio grosse non ci stanno qua in questa base, quindi ho messo il 430, 140, 275H, 475H, boh, finito, basta così. Vabbè, se è quello, le persone che ci sono, basta avanzare con questi appare che ci abbiamo. Allora, io ho quella da 87, il 4000 giù, la Giovanna è 3009, poi adesso ce li ho tutti qui, cioè me, i portati di PMR, i portati di Marini che mi ha regalato Giovanna, e poi quell'apparecchio che stavo usando ieri con la verticale, quello cinese che è la metà di quello omologato che ho comprato io da 27. Poi c'è l'altro, basta avanza. No, ma infatti, ce n'è per i maiali, Antonio, lascia perdere. Va bene così, molte le ho vendute, una è ancora in vendita, penso che sia già il 90% una truca venduta, qui sono due offerte, quindi va bene così. 756 è partito lunedì. Oggi cos'è? Venerdì, no, mercoledì è partito, quindi va bene così. Radio ne ho, non mi mancano le radio, però ce ne avevo troppe ferme, è tutto un casino, ordine ma casino, perché ogni settimana, ogni 10 giorni a spostare tutte le radio, bugane, tutto un bivolo, la lana che si forma dietro, è un lavoro, io non ne ho più voglia. E come le antenne, non arrivate a una certa età, non è che puoi tenere sul tetto tralicce e balle varie, perché tutti appendi, a 70 anni di buono appendi, appenderti sopra le antenne. Quindi, tolto tutto, via, fuori dalle balle, sto benissimo così, due chiacchiere con voi, poi c'ho le due le u, infatti sto ascoltando. Sulla reserva, perfetto, funziona. E va bene. Ok, non c'è nessuno sul 10? No, non c'è nessun altro. Ma in internet non c'è nessuno lo stesso. Non è entrato nessuno ancora. Scusa, come cosa hai detto? Mi sono un attimo alzato. Ho detto che in PML non c'è nessuno, ho detto. Ma con cane, vero? La sera stavo tutti qua con batterie di quei patate della Midra, meno male è stato fortunato, ci posso mettere le batterie ricaricabili da 1200 mAh dentro. Perché aprire il cazzo di pacco batterie, quello di girare il suo, quello da girare. Non è proprio il pacco batterie diventare pazzo. quindi ci ho messo le batterie quelle adesso di USB normali e funziona benissimo. Poi la prossima settimana mi compro le batterie ricaricabili da 1200 mAh, ci filo quelle in quelli marini, quando voglio caricare li carico, quando c'è le batterie grosse monta. Io due della media, due portate di mani nuovi, comprese, ho trovato anche le scatole, il metostruzione addirittura. No, come un lavoro, no, PMR, ma ce n'è nessuno, ma questo è lì a scherziare, a fare, ma non mi interessa. Non mi interessa, non posso sacrificare una radio grossa per parlare del PMR, però me se non serve. Su quei pochi punti che sono rimasti, quelle tu, basta. Per il momento poi vediamo, non lo so, se trovo uno spazietto o qualcosa del genere, magari metto il veicolare, ma per il momento va bene così. Ascolta, piuttosto rumori, inneschi, niente, tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Niente inneschi e rumori. Perfetto, perfetto. Va benissimo, dai, non c'è problema. Tutto le appare veloce, qua che c'è, 80 metri c'è. Anche. C'ho tutto, c'ho una KF e poi l'altra KF lo uso per qua, per la 27, poi quanto me, ma cosa vuoi, è più di quello cosa vuoi morire? Ah, va, è il mondo poi, due palette di lana mi ho tolto da dietro la radio, tutte e due piani, smontati, tolti, mamma mia, mi lavoro, cazzo. È bello, 5-6 metri a parte tutti i cavetti che ci hai messo, commutatori e roba del genere, è un casino, capito? Vabbè, puoi farle girare una per una ogni anno, tocca farlo io, cazzo, oggi quello, domani quell'altro, eccetera, eccetera. Arrivato a un certo punto, cazzo. Se la si spenta il difetto subito, usando questi due, gli altri li lasciate a Giovanna, a me li usare che è a posto. Brutta versa. Adesso sto pulendo giù, domani devo fare, oggi ho tagliato a casa un mobile di sì, antichini. E adesso lo guardo, con la moto ho tagliato, cazzo, un fumo in garage, cazzo, poi sono andato al bar, cazzo, e te la mia lanciata, ha detto che sto morendo, ma quanti settimane, no, ho subito un po' di fumo, gli ho detto, ragazzi. Mancato di radio Antonio, ti dovevi bere il latte, non la lanciata. Chi era l'altro sotto, chi era? Il più forte, lo Platone, lo ci sono io. Ciao a tutti. Io. Ciao Robert, buonasera, ben ascoltato. Io non sto facendo di radio, forse sta la parola, non è tanto se entriamo ne usciva solo importante. Adesso va bene, sto facendo di radio. Di radio già stai uscendo, no? Ti sentivo la portante, però non si sentiva la voce. E a volte me lo fa questo microfono qua. Cioè tic che evidentemente che vuole pulito, lo sai che quando stai un po' di tempo al microfono si usi le lamelle ripetitive, è un casino. E perché che radio è questo? L'87 sto usando, il microfono amplificato del 6. Già sta spingendo parecchio, uno gruppo. Basta, nessuno altro c'è il clown tra voi due. Non ho capito, se tra voi due c'è? Ho detto oltre a voi due altri ce n'è. No, non è entrato nessun altro ancora. Che ieri c'erano combattimenti. Ieri? E che cosa stavo facendo? Le prove perché allo basso o basso? No, c'era qualcuno che ce l'aveva con qualche un altro, quando parlava lo schiacciava un po' che non sentivo situazioni del genere, proprio guerra e battaglia. Ah, capito, quello di c'erano con la portante che mettono a Giulio, già ho capito. A tavola, il padre che parlava lui, tac, portate sopra. Evidentemente c'è qualcuno che ve l'ha guletto. segnale, ma io non me ne ho fatto. Comunque sarebbe stato che era un segnale molto molto forte e annientava di subito a tutti, diciamo a qualcuno più di più e a qualcun altro di meno, però il segnale era fortissimo, 9+25, qualcuno sotto si sentiva, però quelli che erano sotto i 9+20 nessuno passava. E l'altro giorno stavo ascoltando per quello. Proprio sono neanche entrato, gli ho detto cazzo, però le portate esistono, ho detto. Boh, se uno c'ha qualcosa con qualcuno, vai, io dici direttamente a barattino, guarda, ti devo parlare, ti sei comportato così e ci vediamo di persona, non è che, cazzo, vai, metti la portata, cosa vai così, non fai nulla. Cioè, risulta uno che non c'ha palle lì, in pratica. Se tu ce l'hai con me, ti presenti, guarda, te ne devo parlare, io tutti si comportano così per dire dobbiamo chiarire. Però non andare, cioè, quando metti la portata, perché però, a parte che ci rimetta quella la persona, ma ce la mettono tutti nella ruota. Quindi a un certo punto tocca spostarsi, fare un'altra ruota e basta. Io grazie a Dio non ho mai avuto di questi problemi, sono amico di tutti. Quando vedo che c'è aria brutta spengo e me ne vado, a me la radio già lo sai Antonella, solo per divertirmi e svagarmi un pochettino, se c'è qualcuno che mi interessa parlare, qualche momento rimango, se non mi piace sono in ascolto, o se no spengo tutto. Difficilmente a me mi vedrai bisticciare con qualcuno. Una volta negli anni 80 c'era, tutti i giorni c'erano portanti, c'erano affaratori, a parte gli affaratori, vabbè, poi c'era quello che andava a cercare le ragazzine in macchina, sto casa sua, io scendi, ti voglio conoscere, cazzo. Poi c'erano tutti quanti i tecnici, ti appiazzo io l'antenna, ti appiazzo io. Tu ne hai conosciuto sicuramente più di me, è Claudio la Matte Segosa. Avanti Claudio. Sì, io sono qua, io sto... Sto facendo, mettendo a posto, ma guarda la stessa cosa ti dico, io ho mollato tutto, ma sono uscito col cane, non mi interessa più vigere la media e i casini, ognuno si arrangi con le proprie forze, ognuno faccia ciò che crede e ciò che vuole, io basta. Ho già fatto roba, fai o non fai di buon esempio in mezzo, quindi meglio starne fuori. Cosa però è giusto dire che si mette la portante e non chiarisce un vigliacco, perché non è che tu puoi disturbare un QSO perché ce l'hai con una persona singola, come aveva tanto detto. Chiarisci, metti le cose a posto, sbagliare umano, per carità, però bisogna, come si dice, ammettere quando uno sbaglia, perché gente che non ammette si biglia a bua che manna e allora succede così. Vabbè, chiuso il discorso, a me poco mi interessa. Se si può parlare parlo, se no, metti qua. Abbasso una, dove cazzo il volume? E tiro su il volume dell'altra. Non c'è problema. Anzi, il volume qua non è tirato proprio. Ecco qua, quindi. Non lo so. Ok, lasciamo un attimo nel bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare sul canale 10. Avanti che vuole entrare. Se no riprendi tu Antonio. Se no parliamo con Mulo, parliamo, capito bello bene, parli con Mulo. Sì, ma la cosa più ridicola, siamo quattro gatti, ma proprio quattro gatti che c'erano un po' diventati qualcuno in più nel periodo del lockdown, da sera c'era qualcuno in più, e una volta veduto c'è sempre qualcuno che deve creare difficoltà. Ma funziona così, non è che non puoi fare un questionario su queste cose, è da sempre così, vabbè. Riprendi con Antonello che io devo spostare delle cartine geografiche qua, perché ho cambiato completamente adesso, da destra sono passato a sinistra, apertura e finestra diversa, cavi sono dall'altra parte, ci hanno fatto un lavoro un po' particolare qua, dai, che è molto più ordinato e va molto meglio. Sì, già neanche tu di solito, non va problema. Allora, ma cosa ho tuo Fabio, che fine ha fatto? Non ho più sentito da quando c'è il lockdown. No, neanche io sento più a Fabio, la verità. So che è fidanzato al centro storico con la ragazza, poi non è più intenso, la verità. Evidentemente ha trovato pelo e quindi sta. Posso usare il baracchino, usa il pelo. Ho capito, ha trovato una compagna al centro storico, così è detto? Sì, ha trovato una compagna al centro storico, hai capito, e quindi stava, si sta andando all'amore adesso, ho capito. Andiamo a far vivere allora, no? Perché era qua vicino, abitava vicino a me, no, non è così. Perché doveva mettere l'antenna, dice dovevi dargli la mano tu, stavo aspettando qualcuno, ma questo stiamo parlando di aprile-maggio, poi da allora io non l'ho più sentito. E poi ho conosciuto magari qualche ragazza lì, l'avevo visto con una ragazza, hai capito? Quindi evidentemente ha trovato l'amore e quindi è impegnato su quello, magari anche il lavoro, cosa ne so, purtroppo da quando l'ha aperto, grazie a Dio, qualcuno già sta lavorando ancora, ma se dovessero chiudere tutto, tutti a casa, dove? Il coso per uscire, il foglio. Mamma mia, mi stavo parlando stamattina con un amico mio che è venuto qua, io gli ho prestato il PMR e mi ha detto che ieri a pronto soccorso dove c'era lui facendo vigilanza e ce ne sono entrati 35 positivi, ne sono entrati. Sì, e quindi, io ho questa logica qua, sei positivo e quindi, che cazzo succede? Cioè la gente diventa un panico totale, sembra che c'hai la lebbra, cacchio, che c'è una cosa talmente mortale, io ne conosco tanti, ma tanti positivi, come si chiama, curati nelle dovute cose, con le dovute medicine, dopo 10 giorni sono tornato in giro, 15 giorni, dai, non 10 giorni, sono di nuovo in giro, ma ne conosco tantissimi. Il primo che era successo, un amico mio carissimo, quello era venuto già grave, si è fatto 15 giorni in ospedale, ma quello stava male, è venuto da ponte di legno su in continente, era già tutto su mari, l'hanno curato male, poi ma adesso se ne faccio nome e cognome di persone che hanno avuto positività al coronavirus, dopo gli interventi, dopo 2 settimane erano di nuovo in giro, tutto pulito. Tu guarda a Trump, la tratta di cura che ha fatto, dopo una settimana direttamente torna senza mascherina, sono a posto, sono guarito, però intanto cazzo di cosa deve dare a nessuno, ha permesso i vaccini, tanto lui sta morendo, che cazzo deve frega lui, almeno più vogliono e meno ce l'ha a pagare, cazzo. Cosa metto? Questo qui cos'è? Un 88, cosa metto? Un 87, questo baracchino che sta usando. Eia, un 87 della Midland questo, eh. 281 canali. Quanti canali è? 40 canali. 271, con le bande laterali. Non lo conosco, ma vecchio come baracchino. È un modello vecchio, questo è il secondo modello, perché il modello proprio vecchio c'ha le... i pulsantini toccavate più diversi, c'era rettangolari, invece questo c'ha proprio i pulsantini come l'FM500S. Ma c'è anche MFM questo? C'ha MFM USB e USB CW, c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino alla F arriva. E più c'è la frequenzimetro? No, frequenzimetro non ne ha questo, senza frequenzimetro. Comunque c'è bene, il bip c'è l'originale che l'hai messo tu, nel microfono. Il bip è sull'originale. No, si sente bene come radio. È tipo la 48 come modulazione. È perfetta, se in attacco in salone, tagliate un ricordo, mi dicevi un sacco di... quando in salone, a basta, Antonese, sente un sacco di roba. In salone c'è un giugno con le 4.000 di Giovanna. Io mi sono, cioè mi ha tenuto il coso, il densei preamplificato, palmare. Ho visto adesso, parlando di gente in radio, sono iscritto in un gruppo, mi sembra Sassa di Riccia o qualcosa del genere, Mannone, non mi ricordo di te come si chiama, e c'è la, come si chiama, questa tipa, si chiama Anna Sassu, non la conosco, e ha detto, chi è che di voi ha avuto mai il baracchino? Cata, me la bocca di niente, che cosa mi ricorda? Break Break, e lì hanno risolto un bel di gente, ma un bel di gente, tra cui anche un radioamatore, che ha detto che anche lui ha iniziato di lì, e c'è un bel di gente, e io ce l'ho ancora gli apparati. Io, mio zio, ce l'aveva quella, tutti i dominanti, a chissà, Rosa Verde, Falcone, hanno fatto tutti i ricordi, ma c'erano 95 commenti e ognuno ha raccontato le proprie cose. E c'è questa Anna Sassu che lì c'aveva anche lei il baracchino, lei la conosce? Anna, sì, Anna, se quella che penso io è la figlia di quella che è... lavorava lì come custode al magistero, deve essere quella per forza. che c'è un fratello che è vigilante, che mi aiutava anche lui. No, io non la conosco, non so chi sia, ho visto questa parte, ha fatto questa domanda, ha scritto qualcosa vi ricorda Break and Break, e allora addirittura hanno risposto, tra cui qualcuno che qua in frequenza ha risposto, ha risposto a Radio Amatore, abbastanza conosciuto che non facciamo il nome, e poi altre persone che non conosco, che dice io c'ho il baracchino, mio zio ce l'aveva, che si chiamava, non so, Gumombe, di hanno raccontato un sacco di storie, poi alla fine tutti, vi ricordate di Falcone, tutti quanti, mitico mitico Falcone, cazzo. Se ti metti la registrazione, cazzo, lo sai la gente, cazzo, che ti ti prendi un po' di punteggi, ti prendi, se metti la registrazione di Falcone, chi è che non ho mai sentito Falcone qua a Sassari, se ti metti la registrazione arriva di gente commentando, cazzo, ah, quello ho conosciuto, era così, quella con là mi ha fatto il gioco della calzetta. Ma dimmi una cosa, quanti anni può avere questa persona, che questo Falcone? Sì, Falcone è già da lì che non sta pensando. Negli anni 80 era una cosa allucinante, cazzo. Tutti li beccava lui, tutti i nuovi CB che se li assorbiva tutti lui. No, dico, quanti anni può avere questo qua? È ancora vivo? Sì, ci avrà perso una settantina d'anni, una cosa del genere. Già ancora vivo, già abita a Sorso. Quindi 70 anni è grandetto, no? Pensavo di meno io. No, no, già è grandetto, già. Via, lasciamo un attimino di bianco di nuovo, se qualcuno vuole entrare, aspetta le 10, chi vuole entrare avanti. E gli altri che ci sono sempre, oggi boh, non ve nessuno, vabbè, io sto entrando pochissimo, ieri c'era Giulio, c'era Luca Flipper, chi c'era Gianni Doppio Room, poi chi c'era Claudio, non mi ricordo più un altro, forse ce n'era ieri. Poi boh, oggi non ve nessuno. Io vedo tutti i giorni, no, che la gente entra. Magari oggi stanno facendo qualche cosa. Sta tranquillo che se non puoi uscire di casa, vado come te prima. Ogni tanto mi entrava uno, guarda, di quelli vecchi. Ma è che faceva solo cosa. E tu dove sei uscito? Non posso uscire di casa, a me la metto a cabaracchino e va a far cuffia a certo punto. Per lockdown. Poi una volta che all'aperto tutto, spariti e torna. Vabbè, sono qua, ti ho detto io, mi sto ascoltando, ma sto pulendo, sto facendo cose, c'ho la stanza tutta incasinata, sto piegando cavi, io sono qua. Sì, ho capito, non ti preoccupare. Sono qua dagli altri, tutta l'altra gente che normalmente entrava, che tre voti ci sono le portate, certe altre volte c'è gente che parla, ma non fanno parlare agli altri, vabbè, a me non me ne ha fatto nulla, già lo sai. E sta facendo, poi cosa, è riuscito a farci trovare l'antenna a tua sorella, Antonella? Antonella, l'intanto si allontana, aspetta un attimo. Io ho spento il covo, le portate le sono cotte, sono a posto, almeno ho fatto la cena, ormai sto facendo il cuoco io. No, stavo dicendo, non so se hai sentito, tua sorella poi gliela visitava l'antenna, che la lì arrivava forte, il giorno dopo male, oppure la radio non funzionava bene. No, già a posto, un terrazzino l'ho messa, esce bene adesso. L'unica cosa è se devo sistemarli, cioè stiamo togliendo il mobile, poi sistemo gli apparecchi, adesso vediamo un po' se metterli in camera a letto oppure sistemare da qualche altra parte il baracchino. Adesso provvisoriamente li ho messi tutti e tre in salone, perché stiamo buttando roba vecchia, capito? Stamattina ho spaccato con la mola a casa la credenza, una di quelle credenze antiche lì. Con la mola ha già fatto un fumo, grazie, sono intossicato e sono uscito dentro la garage. Ho preso e sono andato al bar di fronte a bere la cosa con un amico. E mi fa, Tiziano, ma non ti senti male, Antonio? Mi ha detto no, non è che mi sento male. Ho respirato un pochettino, detto, di fumo di legna, gli ho detto. E c'ho tutta la bocca impastata. Per bere la birra in modo che non mi faccia male, gli ho detto, sto bevendo una lanciata per quello. E poi cosa ti è venuto con la cosa? 797, ovvero 787? No, ce l'ho ancora qui, ce l'ho. Eccola qua, c'è la scatola. Il quadriballo stai parlando tu, ce l'ho qua. Non l'ha voluto nessuno, anzi, non volevo 450, ha giocato, no, io meno di 500 ho detto. è l'uovo l'uovo, gli ho detto, non c'è un graffio. Io lo sai che quella palato lo uso solo quando vado in, come si chiama, qualche volta mi lo usavo in 27, se aveva problemi la 87 agganciavo quello, se no di solito lo uso per il PMR, che mi viene bene. E ce l'ho qua a casa, ce l'ho. C'è un graffio, non volevo, no, c'è la scatola, c'ho tutto, c'è la modifica per poterlo installare in macchina, con la prolunga e tutto. Perché i primi che l'hanno venduto dovevi arrangiarti da solo, dovevi comprati tutto il resto del kit da parte. Invece questo c'ha tutto. L'avevi beccato, ma la nuova l'ha preso o usato? Poi. Usato, me l'ha venduto Marco Condor. E lui chi l'aveva dato? E lui se l'ha comprato nuovo da negozio, c'era lo scontrino. Aveva pagato 700 euro, a quanto mi ricordo io, 700 euro qualche cosa. Penso che costa anche quello, non è quadribanda quella radio. Sì, è quadribanda, su AliService, anzi no, AliExpress, viene 1200 euro quell'apparecchio lì. Cazzo, giurito all'anima, 1200 euro, proprio nuovo, nuovo, nuovo. Qua c'è anche il DSP o sbaglio quella radio? Sì, c'è anche il DSP, c'è tutto. Manca solo che vi faccia il caffè e sei a posto, puoi agganciare un bel po' di roba, il computer, puoi fare ciò che ti pare ti piace. È bello. Qual è l'857? Eia, 857D. È una bella radiolina. Non l'ho mai avuta io, ho avuto sempre il 706, l'MK2, l'MK2G, qua nel banda poi ho avuto il TS2000. Poi non ho comprato più, c'ho i gemellini della ICOM che sono uno spettacolo, questo che cazzo è, vediamo. Allora, zia Paolo gli ho mandato il link, purtroppo. Ah, era vero, ok, va bene. Ui, vabbè, non è che ce ne sia molta voglia in questi giorni, no? C'è molta, molta tensione a Sassari, molta, molta, molta. C'è molta preoccupazione, molta tensione. Già lo so, perché se la crea, io ho già che il problema non me ne ha fottuto dal coronavirus, però l'ho sempre detto, ci sono cose più importanti. Pensiamo prima alla salute nostra e poi alla salute dei nostri cari e poi al lavoro e a mangiare. Tutto il resto non me ne ha fottuto, stanno creando tanto di quel panico questi balordi. Prima non ne facciamo il lockdown, non se ne fa. Dopo 3 giorni ha fatto il lockdown, l'amico nostro. Lo so. Vabbè, l'ha fatto in Alta Italia, noi siamo ancora zona arancione. Vediamo un po', zona gialla, blu, certo non ci ho capito una minchia io comunque si vedrà, lo già metti di chi. Ma arriva una cosa, ma il market c'è vicino, prima delle poste, vicino a dove abito io, quell'amico nostro, Davide, ha chiuso. Che Davide? Ah, che è passato la stradina, avevamo già salutato, buru. Cosa? Non facciamo il cognome, c'è cioè quello che c'ha con il bar anche dietro di Gatto Furri, non so, io non lo so, io sono andato, quando è? L'ultima volta sono andato un tonino a prendere il caffè, un tonino più allergico, ed era aperto, poi non lo so se è chiuso in questi giorni, Ora è con la linea, sto dicendomi, era aperto il giorno prima, tornava da Rambo e chiuso, quando è che sono andato alle poste, oggi cos'è? Ieri sono andato, ed era chiuso, e ho fatto, cazzo, non che non ci abbia riposo il mercoledì, oggi non l'ho visto, poi ho capito tutto arcando con le catene e tutto, e ho detto, Non lo so, Roberto, io... Come vedi passo la mattina da te e basta, poi vado a portare il cane e non esco più di casa, quindi no, sono finiti i giochi del bar, non è che mi interessi più di tanto. No, io non sono tipo che va al bar, però siccome sono andato alle poste, lì, sono passato a piedi, sono passato, e non mi è mai chiuso oggi. E la cosa manca abbastanza, il giorno prima c'era un bel di gente, poi ti ho detto, non è che ha chiuso per questo cacchio di coso, di vincoli che stanno mettendo galleggi, devi tanto a tutto, questi balordi. Vabbè dai, cambiamo argomento, tanto si andrà sempre a finire di lì. E con la persona che abbiamo nominato stamattina, come sta? Meglio, Cla? Sì, ci sto messaggiando, ho letto, c'è spento al buio, poverino. Però già si è ripreso, dai. È tipo quello che è venuto a me all'occhio. Bisogna stare molto attenti allo stress, l'affaticamento, tante cose ci sono. La salute non si scatta, anche per il coronavirus, quelle cose sono più, bisogna stare attenti. Gli ha mandato delle foto mie, niente, non so fare. No, le ha viste, ancora non le ha inserite, però perché le ha fatti la luce del computer, capito? Vabbè, tra qualche giorno Mari lo chiamo e gli dico un po' cosa si può recuperare e cosa vuole naturalmente per il disturbo. Parlaci con lui e mettetevi d'accordo. Avanti Antonè. Allora, Nico Gerardo, Tomappe, ha detto, per protesta, domicilio. Aspetta il telefono che mi stanno chiamando, deve essere Giovanna, aspetta un attimo. Forse hai capito, no, per protesta, no, perché non devi aprire, i circoli non puoi aprire. Non danno niente allo Stato, capito? Quindi lo Stato non ci guadagna niente, perciò si arrabbi tutti fuori alle balle. Qualche circolo ha fatto cose un po' particolari per aggirare il discorso delle tasse, eccetera, eccetera, e ha tolto lavoro in ballo. Allora, ce n'era tutto il governo, via, fuori, chiusi. Chiusi, che sono proprio quelli che fanno l'assembramento e fate l'ingaggio. Tutti giocando a carte, senza mascherina, sono entrato una volta a salutare proprio a Niccolo, ma ne sono scappato, sono andato via, sono fuggito, tutti giocando, ma proprio nel periodo della vera pandemia, capite? Della vera, non di questa seconda, della vera, proprio ci avevano appena dato l'ok. Ora, tutti giocando a carte e senza mascherina, ma non te ne vai. Incoscienti, cazzo, gente che non ha capito niente, lascia perdere. Raduto fuori le balle, tanto il governo non ci guadagna niente dai circoli. Sì, quello è vero. Oggi se facciamo il discorso sono andato a prendere una cosa a un euro stamattina, pago tutto quanto, ma poi pago, lo vuole un'assicurazione, fate l'assicurazione, gli teniamo noi lo scontrino, glielo conserviamo noi lo scontrino, paga 3,90 euro, non si preoccupi che metto così se prende lo scontrino la garanzia è ancora valida, non si preoccupi che lo scontrino già me lo conservo io. Lui ha 3,90 euro per farsi la fotocopia dello scontrino e metterla in archivio la signora. La macchina. E poi gli scontrini loro li devono tenere per legge, per dire se vengono a me, cioè devono tenere almeno 5 anni tutta la documentazione. Dice no, abbiamo questa opportunità, se per caso lei perde lo scontrino viene entro 2 anni, noi l'assistenza gliela diamo comunque. Guardi, io non ne perdo, sono molto, molto ordinato. Scusa, sono tre sconosciuto che sto spostando le cartine geografiche e quindi sto sempre facendo qua. Va bene, va bene. Così è, così è. Ehi, non c'è nessuno, già rimaneva la brutta oggi, tutto calma, piatta. Ehi, alle 7:30 entrano tutti quanti, io un'altra mezz'oretta, penso di terminare qua. Dono una volta per terra, lascio la finestra aperta, nel frattempo asciugo, vado a portarmi il cane e poi me ne vado sul divano perché sono tutta la sera, ho fatto degli sforzamenti allucinanti, fa male anche la schiena. Questa roba pesante che c'è l'amplificatore a caffè che pesa un tronco, ho trovato un punto, ma bello, bello vicino alla finestra, nella base di sotto della scrivania. Devo solo abbassarmi appena appena per accendere il pulsante, basta. Un capolavoro fatto, molto più ordinato, è più facile da pulire se sposti con le 3-4 radio che hai e pulisci tutto. E a là 2 piani c'erano, mamma mia, bisogna ho tolto di nuovo di là, l'ha fatto 15 giorni fa. Ma tu adesso hai spostato tutta la bancata? Sì, la base, quella che è rimasta, quella grande, domani mattina la smonto, piego i piedi, la smonto, lì ci fa un divanetto. Le radio le ho messe praticamente dall'altra parte, con un'altra base leggermente più piccola. E i cavi si vedono? Assolutamente no, manco uno, si vedono solo quelli che entrano alla finestra, sono fascettati, manco uno è via il cavo, non c'è manco nulla, gli alimentatori sono sotto, quindi non si vedono, i cavi sono in discesa, attaccati al muro e agli alimentatori. Ho fatto un capolavoro. E stavano tu era con la ruota? Base che mi hai dato tu mi stai usando. Quale ti stai usando? No, pensavo che avessi modificato quello di Giulio. No, si modificano quello del nuovo. Una, la piccola è già su, in mansarda. Domani mattina, perché adesso non ne ho più voglia, devo prendere il tassellatore che ci sono i cosi a muro, i tasselli a muro, capito? E quella è la cerniera, quella volendola la posso anche non smontare, piego i piedi e l'abbasso e ci appoggio il divano, capito? Però la tolgo, la porto su, la conservo. il piano, e quelle robe costano. Non è legno del cacchio, tutto legno buono, capito? E poco tutto su. C'ho spazio a quanto voglio, c'ho la televisione, ce l'avevo prima alle spalle, adesso ce l'ho di fronte, quindi perché è attaccata a parete? No, vabbè, va benissimo così qua, venne per i buchi, c'ho l'HF, due HF, che uno è qua, che è questo. Vabbè, non c'è più nessuno, 3669, erano 80 metri, poi questo che sto usando e poi i due gemellini della Icon che fanno voi. Basta e avanza. E l'animatore? E poi ne ho tre, c'ho quello di linea del PS50 e sono sotto, poi c'ho il Proxel da 60A e il Diamond da 60A, capito? Commutatore elettronico sotto, sempre quello della Meritron, quello si tocca, tutto sotto, sotto la base, lo sai, no? Sotto, non si vede niente. Commutatore quindi ce l'hai, non ce l'hai di quelli normali tu? No, io ho sempre quello della Meritron, quello alimentato che chiude su, no, quello non lo tolgono, roba. C'ho il controbox e qua il commutatore sul tetto, però se capita che devo agganciare un'antenna, che mi sale il pallino di agganciare un'antenna, non devo fare karate, no? Mi aggancio lì e sono già pronto. L'antenna arriva giù, posso attaccare qualsiasi tipo di radio. Sì, ok. Vediamo se è rientrato Antonello o se c'è qualcuno che vuole entrare sul 10 avanti. È un bene, andiamo bene, andiamo, andiamo, cazzo. Sotto la scrivania non vengo, ciao, l'unica cosa è che non ho più il computer, dunque ho smontato tutto, mi prepara che ho bombe in macchina e che lo butto, arrangia, diciamo che la potuta la mandetta. Claro, lo butto in macchina e lo bongo, lo butto e lo mettiamo, io ti dico, poi vediamo un po', faccio un po' di foto, aspetta, un attimo, ok, uno e uno, sì, ciao, caro Roberto è quello, ciao Roberto. No, ma computer completo, tastiera, monitor, tutto. Tutto, mouse, tastiera, monitor, colonnine, tutto. Ne ho tolto tutto, non ho più computer. Mi dispiace perché ho fatto la ricarica lunedì, dal 20 euro, ma non me ne ha fatti nulla, capito? No, non mi interessa più, voglio vivere la mia vita io, non che tu gatti il computer. Non mi interessa, ma ragione lì, troppo posto, via, fuori le balle, non mi interessa. L'ho già tolto tutto. Tolto tutto, l'ho smontato tutto, mi sono messo dall'altra parte, fronte in TV, e ho messo tutto dentro la scatola, è tutto conservato, tutto a posto. Tu dovresti comprare un portatile, capito? Un PC portatile, ascolta a me, vabbè, poi vediamo un po' quanto se ne può ricavare, là, io lo resetto prima, metto il sistema operativo, tutto quanto, e poi si fa un prezzo. Beh, lo resettare sì, anche se non c'è nulla, ci sono quelle poche cose che avevamo installato, che ha messo tu. Io non l'ho più toccato perché non sono competente in materia. Vabbè, poi ce ne parliamo di persona, dai. Cappa. Sto arrivando bene, sì? Sì, benissimo. Dai, io sono appena rientrato da Coporata Andrea a fare la puntura, il richiamo del vaccino, almeno è coperta per un anno adesso, Adesso ne parla il prossimo anno. Niente, sono anche un po' stanco, mi siamo ancora riposato e niente. Avanti roba, ripeti. Arrivo subito. Ma non sta a casa tua, lui? No, giù a Pisa. Infatti era il segnale più basso. 9 più 15, però già non è il tuo solito che è molto più forte. Ok, quindi dove fa il computer vai tra? Tutto da cavallo. Io non voglio fare niente io, ma il mondo del computer non mi interessa, io non c'ho mai avuto Facebook, no, non mi interessa. Tolto tutto, telefonino e buco. No, tanto non ne uso, per andare a fare che cosa? Andare a vedere bei, tronzate, non oggi recuperando bene. Io se compro già so come comprare, non ho bisogno di andare su eBay, di telefonarmi, vedi che le radio arrivano lo stesso. Ok, va bene. Quindi nel primo caso ci ha messo le V e le U in due radio separate, così? Due gemellini, c'ho quattro radio, c'ho 430, linea completa del 140 e i due gemellini della Icon, boh, basta, finito. Sì, ma cosa fai? Sono quattro scatole, ti mando le foto. quelli di corsa. Ho tolto anche la T230, ho tolto tutto, 780 dentro la scatola, lo standard, il Marico, il cazzo, che è un altro grande, tutto, ho messo tutto per terra in ordine, tutto vicino qua sotto l'altra scrivania che devo smontare, l'altra base, non è una scrivania, questa è una scrivania. Domani faccio posto nell'armadio perché ci sono anche baracchini lì, base, veicolari eccetera, faccio un po' di posto e metto tutto dentro l'armadio in ordine e basta. Sì, infatti se non lo usi tanto vale che ti tieni solo quello che usi, cosa ne fai? Mica ne va a spettacolo per il pubblico museo. È un lavoro, vabbè, è un lavoro, credimi, è un lavoro. Cioè sfruttare tutte le radio come ce l'avevo io, perché sono due, la base è grande, poi sopra c'è l'altro ripiano, sempre base, quindi una parte sono sotto, una parte sono sopra, sempre con i cavi dietro, non si vede niente, ma si accumula talmente polvere che poi diventa lana, se va dentro il vento, è un casino, qua è tutto arieggiato, non c'è base sopra, non c'è base niente, e puoi spostare, pulire, controllare, fare, di là non potevi fare niente. No, ogni 15 giorni, ogni 20 giorni smontavo tutto, tutto per terra, pulire, aspirare, fare, tutto rimontare di nuovo e basta, che cazzo. Purtroppo è così, cioè voi la bicicletta deve pedalare, due notti deve andare a piedi. Allora, poi alla fin fine, a far voce. Tocco le antenne, basta un HF, tranquillo, fare due chiacchiere. Questo è. No, questo sì, questo è 140 e l'altro è questo qua, senti la ricezione. No, beh, questo arriva a basso, quando muovo Alessandro te la faccio sentire. E quell'altro è 430, in HF ho messo 430. No, già sta andando bene, la radio è pulita, bella. Questa? No, questo è un gioiello, questo è... No, perché me l'hai fatto avere tu da quel tuo amico, però veramente soddisfatto, io ne ho avuto tante di queste radio, ma così muovono, vediamo se riprende Alessandro. Questo è Capoterra, questo è Giuseppe da Capoterra, sta arrivando bene a Cagliari oggi. Va bene, però no, 430 mio, lasciami, nuova nuova. Giorno l'ho smontato tutti i pomelli davanti, tutti puliti, sono luci, non ho un graffio, perfetto. E quella ce l'ho 10 anni la radio, 10 anni ce l'ho, roba, l'avevo comprata la Walter, 10 anni. Ha avuto una riparazione solo, ma l'ha fatta Fabrizio, ha cambiato il display, perché si era bruciato l'ultimo decimale, e boh. Cosa ti volevo dire? Questo io, il microfono non è 60, questo è 908. Quello che stai usando tu? Questo sto usando adesso, la Dunis, 908. No, va bene, se non mi dicevi pensavo che stavo usando 60. Eccezione favolosa, a parte c'è il filtro con il 430 mio, no è biondo, no? Che sbagliato, la voce di Luca quando si mette a fare il tossico, Luca del Monte. Alessandro, lei c'ha più di 70 anni, poi 77, 78, forse c'ha l'età di Giulia, è di cosa, è di Iglesias. Di Iglesias, ci hanno sentito il telefono da poco, guarda che siamo a 3673, ora lo vedo, quando lo scopo appartengo al gruppo loro, no? Così giusto per fare qualcosa, tu ogni tanto mi chiamano, dalle frequenze di spostamento, vieni lì a fare due chiacchiere la sera, sì, a Giugana io lì, e ciò dopo voglio tanto anche per quello che arrivano molto forte, non ho voglia di parlare neanche. era una F questi che stavamo parlando. Allora, perciò, Cagliari è. Questo è Capoterra, questo è Luca da Capoterra. L'altro invece era Alessandro da Iglesias. Cazzo, è buono meno, cioè, perché c'è una giornata particolare o arrivano normalmente questi? A me, poi con Cagliari io fra un po' ci parlo in diretta anche. No, ma a me in 40, in 80 metri, in 80, in 40, in 20 un po' meno, ma in 80 in 40, vabbè, c'ho le antenne, o di poli funzionano bene, registrato il becco mi sembra. Arriva bene Cagliari. 9.20, Luca è 9.20 da Capoterra, 9.10, mentre Alessandro è 9.20, 9.25, arriva. Arriva bene, avanti Beppe. Yeah, buonasera a tutti. Buonasera. Ho detto, e questo è da Sassari. Non l'ho fatto un break. Ciao Roberto, ciao Claudio, non so se ci sia altra gente, dai, ho acceso adesso al telefono. Cala gara, riprendi Claudio. Sì, vabbè, tu anche se non fai back, io mi apro bocca, già ti conosco, non c'è un problema. No, lo facciamo sentire a Roberto la ricezione anche al 4.30 in HF. È favolosa quella radio. Ma anche 27 esce molto bene. Va bene, va bene. Io come sto? Mamma mia che... Ma tu sei in 80 metri li stavi ascoltando questi qua? Sì, sono a 3663.00 80 metri. Ho voglio togliermi il gusto, avrei messo lì in becco io con la mantola. E io con la mantola ti arrivano un bel bacio. Però già li senti. Non lo so, Cagliari è molto difficile. Però già... Perché Giuseppe da Capoterra, 9 più 20 sta arrivando. Aspetta, faccio la prova, riprendete voi, voglio vedere se li ascolto. Ma io con la Mantova li ascoltavo, anche su 7100 andavo, eccetera, ascoltavo tutti. Sì, vabbè, li ascolti, certo qui li ascolti. Ma sì, ma già li senti qua, c'ho segnaloni con le antenne, poi Cagliari. Cagliari è molto difficile che arrivi. Ci avessero scritto molto lungo, se no non li senti. Invece oggi sto arrivando molto bene. In 80 metri, vabbè, 3663.00. No, io li ascoltavo belli furti, anche quando facevano i contest, tutto quanto, li ascoltavo. Beh certo, ho già spiegato. Lavora sotto multipli, 16, 7, 14, 21, 28, quindi. Però in 80 è difficile, tu stai parlando dei 40, in 80 è difficile che senti Cagliari, se non hai l'antenna. Cagliari, vedi? Questo è Cagliari, Giuseppe da Cagliari, no, ma Giovanna di Trasero Belli. Ma in internazionale non c'è più Claudio. Ah boh, ci vado in internazionale, ascoltare cosa, Mondetta? Ascoltare chi? Per carità, che schifo, no, no, mi guarda, io abbasso qua, in 80, sollevo qua. Perché è molto basso lì, praticamente sei da... Anche questo è Cagliari, in VHF, qualcosa si sente ancora anche senza essere digitale, così è? Beh, il ponte LR0, cioè sia in digitale che in analogico, se parla in analogico li senti, se parla in digitale senti solo bisogna attrezzarsi allora, bisogna comprare radio digitale. È chiaro che vi essere attrezzato, vabbè, ma cosa cazzo ve ne fate voi se non siete radio maturi? Beh, questa è digitale, vai a spendere 300-400 euro di radio portatile, non veicolare o base come ce l'ho io, portatile, se no ti viene il malumore, ti viene a comprare una radio digitale così grande. No, io stavo parlando per te, ho detto bisogna attrezzarsi, ma intendevo dire a te, no, ma io non me ne faccio nulla, lo so che non me ne posso fare niente, non la posso sfruttare come dovrei. Io ho le due LIU analogiche, le due LIU in DMR, ma non mi serve altro, io c'ho tutto quello che serve per fare attività. Però no, non mi interessa, mi interessa più ascoltare, stavo diventando molto ascoltone, infatti c'ho tutto acceso, però sto solo ascoltando. Quando ne ho voglia, se mi interessa salutare qualcuno, entro e saluto, ma no, non ho fatto nulla già. Già va bene così. Ciao, ti ha tratto. Ero bene, ero bene. C'è questo qua, però c'è la voce continentale, non so chi sia, non penso che sia il capotere, l'altro c'era questo che stava chiamando Luca, quelli che ha chiamato tu probabilmente è quello che hai detto tu, Santiago 995. O stai gridando o sei troppo alto, la radio è troppo impastata qua arriva. Ma di chi stai dicendo? A te. Vabbè, forse mi sono avvicinato un po' troppo al microfono, io normalmente parlo 80 centimetri, dai, 70 centimetri, e parlo con questo tono poco fa, ero un po' più vicino. Infatti adesso ha cambiato la storia. Cosa stavo dicendo, Roba, e poi ne sentito? Sì, c'erano due o tre, stavamo parlando, non so chi era, uno c'aveva il centro continentale, era quasi 9, l'altro, quello là, Cagliari era a 100, quello arrivava a 9,5, qualche picco di 9,10, e poi c'era un altro che, vabbè, non stavo parlando con l'altro, però non mi sono trattenuto. Comunque, con la macchina arrivava intorno a 9. E li ascolti con la macchina, perché io andavo su 7,100, su 3,008, andavo e li ascoltavo. 7,008 lo esiste, 7,080. Sì, vabbè, già mi hai capito, 3,100, eccetera, eccetera. E niente, li ascoltavo. Ma qua siamo in 80 metri da giù di tu, è difficile, si ascolti basso. Ascolti in basso, 5, 6, 7, non di più, se c'è propagazione come stasera, se no Cagliari non arriva, se non hai direttivo, se non hai antenne, capito, non arriva la mano a Cagliari, gli altri sì, continentali li ascolti, l'altra Italia li ascolti, centro Italia li ascolti, ma siamo però degli 80 metri però. Mentre invece con la manto facendo sotto multipli 7, 14, 21, 28 ascolti. Io non interrompo, devo andarvi adesso. Vi saluto, ciao Claudio, ciao Gianni e tutti gli amici eventuali in ascolto. Io interrompo, devo fare cosa. Ciao ciao. Ciao Roberto. Dimmi. Ho detto, l'hai aperta, grandi sono quelle buste. Non lo so, già me l'hai detto stamattina, sono belle massicce, sono fatte bene, burro. Già roba buona, non è modesta. Stamattina scendo giù a vedere se riesco a procurarmi un paio di rotoli di Antonio, se no mi farà cazzare le balle e cose. Se ne mangiano oggi compreso. Io non so cosa le servo, cosa vuoi ti dica. Adesso stasera ho telefonato, anzi stamattina ho chiamato col mio collega, ex collega, gli ho detto, vai, ma dicevo, cazzo, non me lo puoi chiedere, non mi butto di più. No, te lo spiego di persona. E allora vi saluto, andiamo, buon proseguimento a tutti e due, ciao. Ciao Roberto, avanti Luca. Avanti, claro. Luca, avanti. Ah, basta quel cazzo di microfono che non ho capito niente. Guarda, c'è fuori frequenza tu. Quando stai scendo male, forse c'è del freddo. No. No, non ti scende fuori frequenza. No. Ah, sei in banda laterale, sì. Qua in banda laterale, sì. Lo sento strano anche io, tutto fuori frequenza. Lo sentivo mai chiaro ieri. Sembra fuori frequenza o in banda laterale, da qualche altra parte, non so dove è andata a finire. Tanto. Io stavano le pizze qui su apparecchio. Ehi. Uno spettacolo veramente, minchia, mai avuto un 140 a questi livelli, c'è il frontalino che dà paura, nuovo, la caccia, non è un graffio, nuovo, mai usato. Lo so, il 140 è bello, io l'ho avuto due o tre di 140 e... sono dei begli apparecchi, tutti si lamentano del QRM, ma a me non mi dava nessun problema, forse anche la zona, QRM, certo QRM è 430 in questo momento, c'ho uno di QRM, nuova, non ho fatto vero Roberto, li drive nuovi, graffi zero nel frontalino, nulla, non aveva neanche il decimale, l'ho messo io, perché lo usava solo in banda laterale, non ho fatto vero Roberto, era nella dematore. Infatti sto usando sempre questo. Va bene. Ottimo. Esce un bel forte. Ma l'hai aumentata tu gli adesci? Non l'ho fatta io, non ho aumentato le decine, l'ho fatta io per me. Vatte non ne ho toccato, ho messo l'ultimo decimale, ho girato, appunto, ho messo al massimo la resistenza variabile dello slider del Michigin, che era zero, e niente, gli ho dato appena appena proprio i picchi di modulazione, da 20 a 40 insomma, da 20 watt a 40 watt. E boh, non gli ho fatto altro, è nuova, dentro è uno spettacolo. Ci credo. Se mi immagino mai un discatolo del 140, e figurati che c'ha la scatola sua originale, manuale originale, microfono originale, cavetto originale della Kenwood, tutto originale, infatti già rimane in obbligo. E se non è stata sfruttata, ti conviene tenerla, perché il problema di quelle radio è che vanno usurati i componenti a furia di usarla. Se poi non sono usati è come se fossero nuovi. Ma questa non aveva problemi, no? Questa tu la puoi lasciare mesi e mesi dentro l'armadio spento, quando la prendi accende e funziona. Prova a farlo con 440, vedi? 430, 680, 140 sono i migliori, il 440 me ne è sceso dalle balle. Tre riparazioni ho fatto, mi da 180 euro l'una, tre. Senza quella che mi aveva fatto Fabrizio, quindi sono quattro, fatti lo gol. Una non pagata e tre pagate, 180 per tre quanto fa? Io ti comparavo una Sanrai. Bravo. Adesso farà male? No, adesso non prova. Vedi un po', 1, 2, 3, 4. Adesso è perfetto. Cazzo, questi PL di merda però. Stavo a dire a me che stavo parlando, ce n'ha accorto Giulio, ma è sceso il segnale. Adesso ne ho tolto tutto, anche la TV 130 dentro l'armadio, antenna diretta e boh. Non mi voglio ben sentire che si gaggiati. Uso una radio e l'altra in HF, boh, finito. Chi è che voleva entrare sotto? Aspettate un attimo, ho sentito qualcuno sotto, chi è? Ciao Fortunato, dove sei? Florina, sei in fase di discesa, ciao, buonasera, ben ascoltato. Scusa se non abbiamo lasciato bianco, ma ti ho sentito nell'attimo che ha mollato Antonio Riserva. Lo sentite Lacchi, a Fortunato? Ehi, piccolo, ma lo sento. Ciao Lacchi, mi rientro, sei? Kappa, dai, kappa. Allora facciamo girare quando esci dalle gallerie e poi ti richiamiamo. Avanti Antu. Reserva. Sicuramente sta registrando la radio, va. Va bene, Fortuna. Io già ti sento anche dentro la galleria, non c'è problema. Dentro lo senti? Sì. E mi sentono anche loro, ma solo che non si può parlare perché va in tinti l'antenna. Capito? Io stavo per ordinare finali nuovi. No, è un problema di radio, Anto, di modulazione. Porca miseria, ma ancora male sto andando. No, adesso va bene. Allora, con lo spezzo lì, cioè, prima le stesse mio in campagna buttati da 25 anni non hanno un problema. Questi fatti avanti ieri. Ma cosa ci hai messo di PL? Quei PL che vedono adesso. Quelli con la plastica bianca. Teflon già, è di origine che è Teflon. Però non è possibile che vadano in corto. No, io quelli con la plastica bianca non li compareggio, prendo sempre quelli macchinette, quelli marroncini all'interno, ma non ne avevo a fusare, infatti me ne serviva uno per l'antenna della macchina, e ho smontato uno spezzone che ce l'avevo e me l'ho tolto da lì, perché quelli di plastica non mi piacciono, o teflon o cosa sia, non mi piacciono. Vabbè già, però quelli basilite non vanno bene per il 58. E chi te l'ha detto? Te l'ha detto. E perché non c'è le leggi 58, c'è le macchinette? Vabbè, con le riduzioni. Esatto. Lo so, però io quei pochi che mi sono rimasti erano tutti attaccati a 253, le riduzioni. Le vendono Fusari. Non compro più nulla a Fusari. Lo sai che una volta ho comprato i piedi di riduzione e non abitavano. Non andavano bene come filettatura. È capitato anche quello.